Ed ora ascolti il dialogo alla fermata dell'autobus. Alla fermata dell'autobus. Ecco la fermata del 32. Ah, scusi, il telefonino. Oh, it's okay. Pronto? Andrea, ciao! Sì, stiamo andando al parcheggio in Piazza della Libertà. Certo, puoi venire con noi. Che ore sono? Sono quasi le 11. Sì, ci vediamo al parcheggio fra 20 minuti circa. Dipende dal traffico. Bene, a dopo. Ciao! Lorenzo tells Andrea, we're going to the car park. Stiamo andando al parcheggio. You've already come across this verb form in Unit 5. Remember, it's used to express an action at the moment of speaking. It's a combination of stare and another verb, in this case andando, which comes from andare. The final part of the verb are is replaced by ando. Listen and repeat both forms. Andare. Andando. Now listen to the following sentence, which means we're taking the bus. Stiamo prendendo l'autobus. This time the basic verb is prendere. And the final part ere changes into endo. Listen and repeat both forms. Prendere, prendendo. Now listen to this sentence. Andrea sta venendo al parcheggio. Andrea is coming to the car park. Here the basic verb is venire. And the final part is ire. But this time it also changes into endo. Listen and repeat both forms. Venire, venendo. Now you say what you're doing using the given verb. And of course, preface your answer with the word sto. I am. Per esempio, mangiare la pizza. Sto mangiando la pizza. After you hear the correct answer, repeat it. Cominciamo. Pagare il conto. Sto pagando il conto. Scrivere il numero di telefono. Sto scrivendo il numero di telefono. Aspettare mio marito. Sto aspettando mio marito. Prendere un caffè. Sto prendendo un caffè. Consultare l'elenco telefonico. Sto consultando l'elenco telefonico.